semplicemente, semplicemente, semplicemente. Eh sì, semplicemente insieme, eccomi qua, buon pomeriggio e bentrovati, siete rigorosamente in diretta su CRM, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry. Sarò con voi sino alle 17 circa, vi terrò compagnia sempre con tanta bella musica, qualche notizia al solito, qualche gossip, perché ci sta bene, ci sta tutto. Allora, che dite, cominciamo? Sì, io direi di cominciare, già sono in ritardo, come al solito, che devo fare? Fa parte di me essere in ritardo, e pazienza, pazienza, cominciamo con una bella canzone, devo dire, dal ritmo molto, molto grintoso, sì, sì, e allora sì, cominciamo! Yeah, yeah, when I walk on by, girls be looking like damn, you fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Okay. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Hey. Yeah. Sex and I know it. Bella, vi piace? Molto carina, sì, divertente. Bella, bella, bella. Abbiamo cominciato bene, devo dire. Vi ricordo i numeri per le vostre richieste: il 335-5637-251 e ancora lo 0921-923292. Mi raccomando, fatevi sentire, noi andiamo avanti. Ah! Guns N' Roses, Think About You. A proposito di questo gruppo, a poche ore dall'ingresso dei Guns N' Roses nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame, Axl Rose, frontman del gruppo, ha dichiarato non solo che non parteciperà alla cerimonia di gala, ma ancora più sorprendente di non voler neanche far parte del museo del rock. Una delusione per i fan che, dopo la dichiarazione del tastierista Dizzy Reed, avevano sperato di veder finalmente riuniti i Guns N' Roses in occasione dell'evento. Axl ha spiegato le sue ragioni ai fan in una lunga lettera pubblicata sul profilo Facebook dei Guns N' Roses. Quando sono state annunciate le candidature per la Rock and Roll Hall of Fame, ho provato, dice, emozioni contrastanti e mi sono sforzato di essere positivo. Naturalmente ho capito che, come, per come stavano le cose, se i Guns N' Roses fossero stati inclusi, la situazione sarebbe stata un po' complicata e imbarazzante. E sulle ragioni che l'hanno portato a declinare l'invito della Hall of Fame, spiega, né io o chiunque altro legato a me ha fatto richieste o preteso qualcosa dalla Hall of Fame. È il loro show, non il mio. Detto questo, non sarò presente alla cerimonia di inclusione 2012 della Rock and Roll Hall of Fame e rifiuto rispettosamente il mio insediamento come membro dei Guns N' Roses. Pazienza, questa è una delusione quindi per tutti i fan, però ha deciso così e quindi accettiamo quello che vorrà fare, che vuole fare. E noi continuiamo sempre con la buona musica, sempre qui in diretta su CRM P Radio. Ciao. Semplicemente ciao, difficile trovar parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del colore. Ciao, semplicemente ciao, disegno l'erba verde come la speranza, come frutta ancora acerba, e adesso un po' di blu come la notte, di bianco come le sue stelle, con le sfumature gialle. E questo era l'ultimo demo da Come un pittore assieme a Yarrabbe De Palo. Siete sempre qui in compagnia di Jerry sino alle 17. Stavo guardando al solito qualche notizia, no? Mi sono soffermata su una, perché praticamente è un poliziotta vietnamita, è rimasto, sentite un po', aggrappato al parabrezza di un autobus che correva lungo l'autostrada per riuscire a fare una multa. Ha resistito aggrappato al parabrezza per 1 chilometro, però poi ha desistito nell'intento, e ci credo, cioè, ma cose fuori proprio dal mondo, cioè, che arrivano, beh, cose strane, mamma mia, cose che succedono. E noi continuiamo ancora con la bella musica, naturalmente sempre qui in diretta. Tra quei fiori che non guardi mai, dove vendi corpo adore, dove amarsi non è amore, e sdraiandoti vai via da te. Nella stanza 26, dove incontri sempre un altro addio, che ferisce il tuo bisogno d'affetto, in quel breve contatto che non c'è. Aprirai. E come rondini imprendibili vanno liberi da un corpo stanco ormai. I pensieri che hai nella stanza 26, tra quei fiori che non guardi mai. Se ti affacci vedi il mare, ricomincia a respirare, poi ti perdi nella sua armonia e hai coraggio di andar via, via da un mondo sporco che non vuoi, via da un bacio che non ha tenerezze, che non sa di carezze. E cammini lungo il mare, nel suo lento respirare, tu sei parte di quel tutto ormai. E nella stanza 26, metti un fiore tra i capelli tuoi, mentre l'alba nuova ti viene incontro, nel profumo del vento. E siete ancora qui in compagnia di Jerry sino alle 17 all'interno di Semplicemente Insieme. Sì, io insieme a voi e voi insieme a me. Mi raccomando, fatevi sentire al 3355637251, lo 0921 92 32 92. I notice that you got it, you notice that I want it, you know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. See the sunlight. Bella, bella. Su questa canzone saluto Marcella che ce l'ha richiesto sempre qui, in diretta dal sito www.crmpradio.it, quindi fatelo anche voi. A proposito di Britney, si fa sempre più certa la presenza tra i giudici della seconda stagione di X Factor USA. Da mesi, infatti, l'ex Lolita del Popo era in trattative per partecipare al talent canoro, ma pare che ora l'accordo sia stato raggiunto per la cifra di 10 milioni di dollari, niente proprio praticamente. La Spears infatti si andrà così ad aggiungere al cantante Simon Cowell, già presente nella prima edizione che l'aveva fortemente voluta al suo fianco. Sono affascinato da Britney, dice, aveva appunto dichiarato nei mesi scorsi Cowell durante un'intervista radiofonica. È una delle star più popolari al mondo oggi, è una donna determinata che riesce a mettere insieme senza troppa fatica famiglia e carriera. Quando lei parla rimango incantato, è sensuale e i suoi brani scalano le classifiche e riesce ancora a stupire. In effetti ha proprio ragione, sì, una grande, grande artista, sempre ci sorprende, sempre belle, belle canzoni. E noi continuiamo il nuovo Denegrita, Dannato Vivere. Avrei bisogno di sfogarmi e non so più nemmeno piangere. Com'è difficile aspettare quando arrivi alla mia età. Dovrei parlarne con qualcuno e non c'è campo in tutto l'etere. E sento il peso delle stelle che non ho afferrato mai. Era qualcosa che ho provato. Che ho sprecato a far programmi senza agire mai. Stordito, pallido e incazzato, non importa, sono qua. E ho camminato sul pianeta, scalzo, disperato e libero. E certe cose che ho provato non le proverò mai più, ma ho già volato per amore e una volta tornerò a scivolare giù nella corrente per risalire su. We'll

come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni. Tornate in studio ancora insieme a me, insieme a Jerry. A proposito di bellezza, no, c'è una notizia. In Gran Bretagna parte il primo concorso di bellezza per bambine ispirato ad un format americano. Verranno valutate in base al fisico, look più glamour, capacità artistica e portamento. Per partecipare basta avere meno di 13 anni, un look quindi da bamboline e un armadio zeppo di vestiti e di accessori. L'obiettivo, dichiarato dagli organizzatori, è consegnare al mondo dello spettacolo la bambina più glamour di Inghilterra. L'evento però ha subito suscitato grandi polemiche e un acceso dibattito, e ci credo. I riflettori di Miss Mini Princess UK si accenderanno il mese prossimo a Leicester. Circa 100 bambine si sfideranno a colpi di tacco, trucco e bikini. Le aspiranti Miss verranno divise in categoria a seconda dell'età. E c'è, pensate un po', anche un titolo per le bimbe con meno di un anno, quindi Baby Miss, nonostante il pannolino. Beh, le madri delle aspiranti Miss però non sembrano avere dubbi, dicono non c'è nulla di male a far indossare abiti raffinati, tacchi e bikini alle bambine. Ogni giorno indossano costumi spiagge e quindi non vedo insomma quale sia il problema. Beh, contente loro, che posso dire, contente tutte, cioè queste bimbe cominciano già così presto a sfilare, ad andare in passerella. Beh, però se le mamme sono d'accordo, che devo dire, contente loro, contenti tutti. Cominciano troppo presto però, è giusto che facciano altro a quell'età, no? Che si divertano a giocare, insomma. E vabbè, dai, noi continuiamo ancora con la bella musica. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close, wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? More than distance between us. In this case. creeping up on us. You turn around and give me one last touch. That made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused, wanna ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Hey, hey, hey. In this California dreaming, we're 10,000 miles apart. In California, wishing on these stars for your heart, for me, my California canzone. Saluto Maria che ci ascolta, che mi sta ascoltando sempre dal sito www.crmpradio.it. Vi ricordo anche gli altri numerini per i vostri sms, il 335 56 37 251, e ancora potete chiamarmi in diretta allo 0921 92 32 92. Ci sarò io a rispondervi naturalmente. A proposito di Rihanna, diciamo che le sue Miss Sexy e i suoi video un po' così osè hanno fatto ormai storia. Ma chi spera di vederla nuda in copertina, beh, resterà deluso. La cantante ha infatti dichiarato a Mondanité Magazine che non poserebbe mai senza veli su una rivista. Il motivo? Beh, il rispetto per la madre e per l'educazione che ha voluto impartirle. Mamma Monica infatti resterebbe sconvolta nel vedere le grazie della figliuola in bella mostra. Mia madre mi ucciderebbe se posassi nuda, ha dichiarato Rihanna. Mi ha cresciuta seguendo certi standard. Anche se non si è mai spogliata completamente, la cantante ha però di recente confessato di sentirsi molto più a suo agio nuda che con i vestiti. Più sono svestita, più mi sento a mio agio. Per molti forse non funziona, ma per me, ha precisato Rihanna, è un modo per affrontare le mie paure. C'è sempre qualcosa che non va bene in se stessi, per cui si è a disagio. Così invece si diventa coscienti di come si è e tutti possono vedere quello che vedi tu. Sì, esatto, sono d'accordo proprio. Vabbè, lei lo può fare, lo fa, è contenta di farlo e vabbè, noi siamo contenti per lei. Prossimo brano ce l'ha richiesto Tony, che saluto, un bacione grandi, Giovanotti. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te. Io e te che ci abbracciamo forte. Io e te che ci sbattiamo forte. Io e te che andiamo controvento. Io e te che stiamo in movimento. Io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada. Io e te, io e te, io e te. Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy,

canzone. Su questa canzone saluto la nostra carissima e affezionatissima amica Patrizia, che ci segue, mi segue sempre. Grazie Patrizia, un bacione grande a te, naturalmente a tutti quanti voi che ancora mi state ascoltando, sempre qui in diretta su CRM all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente ancora in mia compagnia, ancora per qualche minutino, 40 minuti di circa, sì. I saw you talking on the phone. I know that you are not alone, but you're stealing my heart away. Yeah, you're stealing my heart away. You're acting like you're on your own, but I saw you standing with a girl. Stop trying to steal my heart away. Stop trying to steal my heart away. I don't know where we're going. I don't know. Canzone, saluto Elisa. Ciao Elisa, un bacione grande anche a te. Stavo guardando al solito mio, no? Delle notizie carine da da raccontarvi un po', no? E ne ho trovata una, devo dire, divertente. Praticamente succede a una coppia in vacanza a Tenerife. Stava facendo sesso su un terrazzino di questo hotel dove appunto erano ospiti, quando la donna all'improvviso è volata nel vuoto. Non è chiaro se ciò sia avvenuto per un cedimento del parapetto oppure per una mossa azzardata della coppia. Cioè, fortunatamente però la donna è rimasta agganciata con un piede alla ringhiera delle scale, circa un piano sotto. Se la tragedia era stata evitata, fortunatamente, l'imbarazzo stava appena iniziando, perché dato che il marito ha dovuto chiamare soccorsi per liberare la moglie incastrata che penzolava nuda e a testa in giù all'estremo delle scale. L'intervento di soccorso è stato piuttosto complesso ed ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, oltre che dell'ambulanza. La donna, fortunatamente, devo dire, se l'è cavata con una caviglia rotta, per la quale è stata ricoverata in ospedale. Colmo della sfortuna, ancora, l'ambulanza alla partenza ha rotto la sirena ed ha dovuto chiamare una pattuglia della polizia per essere scortata, quindi come prevedono le procedure in questi casi. Mamma mia, che disavventura che è successa a questa coppia. Dico, divertente, insomma, nella sfortuna è stata, mamma mia, fortunata, devo dire. Non è successo nulla di grave, però ci picchia che imbarazzo, mamma mia. E vabbè, capita, cose che capitano, pazienza. Le donne lo sanno, c'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pari col cuore. Lo sanno da sempre, lo sanno comunque per prime. Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più. Le donne lo sanno chi paga davvero, lo sanno da prima quando è primavera, o forse rimangono pronte il tempo che gira. Le donne lo sanno com'è che son donne e sanno sia dove sia come sia quando, lo sanno da sempre di cosa stavamo parlando. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più. Perduto, che il cielo è leggero, però non è vuoto. Le donne lo sanno, le donne l'han sempre saputo. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Al limite del dolore, al limite dell'amore,

broken by clouds. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedburn fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds of the leaving run out. After the flood, all the colors came out. Ancora qui insieme a voi, Beautiful Day, sì, bellissimo giorno devo dire. Oggi il tempo non è proprio un granché. Ma quando arriva l'estate? Quando estate ti aspettiamo con tanta impazienza. Ma arriverà, sì, ci siamo quasi. Creemos milagros desde que te vi. En esta noche de tequila, boom, boom. Yeah. Eres tan sexy, eres sexy thing. Yeah. Mis ojos te persiguen solo a ti. Yeah. Y debe haber un caos dentro de ti. Yeah. Para que brote así una estrella que baila. Yeah. Infierno y paraíso dentro. De ti, la luna es un sol, mira cómo brilla, baby. The night is on fire, seamos fuego en el cielo, llamas en lo oscuro. What you say? Baila, baila morena, bajo esta luna llena. Under the moonlight. Ven chica, ven loca, dame tu boca, que en esta noche cualquier cosa te toca. Under the moonlight, baila, under the moonlight, baila,

la neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordami, ricordami, tutto questo coraggio non è né. Come le valigie che sto per fare io, perché siamo arrivati alla fine di Semplicemente Insieme, alla fine del programma, quindi non mi resta che salutarvi. Vi ricordo l'appuntamento sempre a partire dalle 15 sino alle 17 per lunedì, mi raccomando non mancate. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di CRM, vi ricordo l'appuntamento alle 19 con Freestyle con Isaiaco e ancora a partire dalle ore 21 Rock Revolution con Filippo e Simone. E allora buon weekend e soprattutto, come dico sempre io, fate i bravi. Ciao ciao, baci baci. Semplicemente.